24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. I sondaggi intanto portano sfiga. Giovanni Toti, 46 anni, Forza Italia. Raffaella Paita, 40 anni, Partito Democratico. La sua priorità per la Liguria. Dobbiamo rivolgere la nostra grande attenzione ai giovani, perché conosco molto bene i problemi dei Liguri e vorrei contribuire a fare in modo che questo territorio si risollevi dalla crisi. Il dissesto idrogeologico, il lavoro, la sanità, perché la Liguria si può governare meglio di come lo è stata negli ultimi 10 anni, c'è molto da fare. Le elezioni sono come una guerra. L'obiettivo essenziale della guerra è la vittoria. E io voglio vincere. I sondaggi intanto portano sfiga. Giovanni Toti, cominciamo con lei, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria. Buongiorno. Buongiorno Minoli, buongiorno a voi. I sondaggi sbagliano sempre, ma questa volta sono per lei. Ci crede? Guarda, lo vediamo tra meno di una settimana. Ormai. Ma lei ci crede? Sente il polso? Io sento che qua il centrodestra è tutto unito e ha trovato un progetto di governo. Vedo che 10 anni di governo del PD della Liguria l'hanno mandata allo sfascio. Senta, immagino che i Liguri avranno una scelta più o meno, come dire, ragionevole. Senta, Renzi dice basta 4-3, segno di forza o di debolezza? Ma mi sembra che metta le mani avanti. In Liguria, se si facesse il referendum come in Irlanda, chi vincerebbe, dalla sensazione che ha lei, girando per la Liguria? Immagino che un ampliamento dei diritti sia necessario anche nel nostro paese, poi bisogna vedere in che termini. Senta, cosa ha detto ieri sera Berlusconi, il suo leader, da Fazio? Io personalmente credo che in uno Stato civile non si vede perché un fidanzato e una fidanzata eterosessuale o anche dello stesso sesso non possano assistere l'altro se è malato, non possono lasciare all'altro in eredità qualcosa. D'accordo? Ha perfettamente ragione. Quindi soddisfatto del voto in Irlanda, lei? Ma guarda, il problema è l'estensione dei diritti, poi sì. non mi incaglierei in una cosa nominalistica, l'ho detto più volte, le nozze gay sono una cosa che mi sembra, come dire, folcloristica, l'estensione dei diritti mi sembra assolutamente normale e naturale in uno Stato civile. Senta, per lei che è uomo di televisione, cosa è stato più difficile in una campagna elettorale così serrata e tutta sul territorio? No, è stata una bella campagna elettorale. A me piace fare campagne elettorali. La politica deve tornare a parlare con la gente per strada. No, la gente non va più a votare nelle urne. Senta, si dice che sia lei il vero pomo della discordia tra Berlusconi e Fitto, che hanno provocato questa separazione del centrodestra e la probabile sconfitta in Puglia. È vero? Lo escludo. La probabile sconfitta in Puglia dipende dal fatto che qualcuno non ha voluto, come ho fatto io in Liguria, metterci la faccia e candidarsi, essendo forse il candidato migliore per riunire la coalizione. Qua dove l'ho fatto la coalizione si è riunita, in Puglia, cioè, dove qualcuno si è tirato indietro la coalizione si è divisa. Senta, cioè Fitto doveva fare il candidato? Io l'avevo chiesto tempo fa, che tutti i dirigenti di prima linea del partito mettessero la faccia in queste difficili elezioni per dare un segnale ai nostri elettori. C'è chi l'ha fatto, Giovanni Toti, c'è chi non l'ha fatto. Ma è vero che Fitto voleva il suo posto, era geloso? Ma non so, se voleva candidarsi in Liguria, dice. No, voleva il suo posto di federatore. Ma non è una questione... Non è una questione di volere il mio posto, le federazioni del centro-destra sono necessarie per tornare a vincere, i nostri elettori lo sanno e ci premiano, si possono fare in tutte le regioni, io spero che dal 1 giugno lavoreremo per farle a livello nazionale. Insomma, c'è la corsa a fare il federatore del centro-destra? Ma il federatore del centro-destra non è Giovanni Toti, il federatore del centro-destra sono tutti i dirigenti politici del centro-destra che si siedano intorno a un tavolo come abbiamo fatto in Liguria e trovino un programma condiviso e trovino dei candidati in cui credere. D'accordo, senta, Berlusconi dice Fitto farà la fine di tutti quelli che mi hanno abbandonato, lo pensa anche lei? Beh, la serie storica non depone a favore di Fitto. Senta, ma non avendo lei nessuna esperienza di amministrazione, non pensa che sia un lavoro difficile per lei questo? No? Ho visto quelli che avevano esperienza di amministrazione qua in Liguria nei 10 anni passati, cosa hanno combinato. Ah, dice che i dilettanti allo sbaraglio va bene uguale, eh? No, ma io non ci sono dilettanti allo sbaraglio. L'amministrazione pubblica vuol dire curarsi della cosa pubblica. Io ho amministrato telegiornali, ho amministrato... Vabbè, diverso, eh? po' diverso. È certo che è diverso, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la politica come mestiere, Minoli? No, no, figuri, io faccio giornalista, non ho tradito come lei. Senta, sul piano nazionale... è una questione di tradire, no, ma scherzo. È una questione che in politica ci si dedica una parte della vita, si cerca di fare quello che è importante, si pensa si possa fare l'importante per la cosa pubblica e poi si torna a fare il proprio mestiere. Qua in Liguria è il... Pronto? È caduta la linea? Scusate, non sento più Toti. È caduta la linea, speriamo di recuperare la linea. Comunque è una partita, quando si dice 4-3, Mario, 4-3 come obiettivo dopo aver detto 5-1. Stavamo commentando prima. Prima era 7-0, poi era 6-1, poi 5-2, mo 4-3. Vediamo, non lo so. Non so se Pietrangelo ha idee diverse. Pietrangelo, che dice? Sul tema. Beh, lì è arrivato? È il dopo più interessante. Bisogna vedere che cosa succederà dopo il risultato elettorale. Ma più che altro nei due campi, sia a sinistra che a destra, se nascerà una sinistra a sinistra di Renzi e se nascerà una destra a destra di Berlusconi, che credo sia nata sia maggioritaria rispetto a Berlusconi. Scusate, c'è di nuovo Toti, buongiorno, è caduta la linea. Ecco, in Puglia non funzionano bene neanche i cellulari. Mi raccomando, senta, ma può essere sul piano nazionale quella di riunire moderati? L'abbiamo sentito anche ieri sera, un mantra che Berlusconi annuncia ma non declina. Ecco, può essere Salvini il leader di questa federazione? Ma io sono profondamente convinto, se no non mi sarei candidato qua in Liguria, che gli elettori debbano scegliere i loro governatori, debbano scegliere anche il prossimo leader del centro-destra. Diciamo, Salvini si è candidato, l'ha detto con chiarezza, sarebbe secondo. Ne ha assoluto diritto. E ne ha i titoli, lei ha fatto l'alleanza con Salvini in Liguria, no? Io ho fatto un'alleanza con Salvini di cui sono profondamente convinto e condividiamo un programma in cui siamo. Quindi può essere Salvini? Ho detto semplicemente che Salvini ha tutti i titoli per aspirarci, visto che è il leader di un partito che può federarsi e far parte di questo grande rassemblement. Dopodiché saranno gli elettori a scegliere. Sì, certo, vabbè, facciamo l'ipotesi. Certo che ne ha titolo, titolo alcune. Ecco, diciamo che Berlusconi ha detto che potrebbe essere una donna il nuovo leader centrodestra, la Carfagna oppure solo. Ci mancherebbe altro, certo che può essere anche una donna, può essere una donna, può essere un uomo, dipende dagli elettori. La Carfagna è sicuramente una persona che può aspirare a questa carica, ma come lei molte altre donne che conosco nel centro-destra. Senta, Ugo da Pegli ci scrive: io sono di Genova e di destra, ma Toti cosa c'entra con la Liguria? Ma Toti c'entra con la Liguria moltissimo. Toti risiede in Liguria dal 2001. Per avere la cittadinanza italiana occorrono 10 anni, per avere la cittadinanza ligure immagino che serva lo stesso tempo, diciamo, almeno per essere qua. Quindi Ugo da Pegli si sente rassicurato. È il mio collegio elettorale alle europee, mi occupo di Liguria al Parlamento europeo da un anno, non mi pare di essere un estraneo alla Liguria, ma lo ripeto, non credo sia questo il tema di queste elezioni. Chi è nato autoctono in Liguria, ha governato negli ultimi anni ininterrottamente 10 di seguito, questa regione non ha fatto granché bene. Senta, ma se il leader non sarà scelto con le primarie, come sarà scelto? Perché sto metodo non si riesce a capire quale sia. Guardi, io credo che anche il metodo deve essere oggetto di confronto tra le forze che devono riunirsi, perché nessuno ha il modo di dettare. Vabbè, un metodo. Ma lei che metodo userebbe? Guardi, io userei un metodo misto, come logico fare. Lo farei scegliere in parte agli elettori, in parte agli amministratori, che sono quelli che detengono il vero consenso dei cittadini. Quindi assemblee degli amministratori locali, assemblee dei dirigenti degli iscritti del partito e magari per una parte anche il voto libero dei cittadini. Senta Toti, siamo in chiusura. Il patto del Nazareno si è rivelato un disastro per Berlusconi. Dove ha sbagliato? Ma il patto del Nazareno in realtà era una cosa alta e nobile per cambiare questo paese, dopodiché noi non abbiamo sbagliato niente, ha sbagliato Renzi a buttarlo via scegliendo l'interesse di partito e non l'interesse del paese. Ma secondo lei c'è una condizione a cui potrebbe ripartire? No, in questo momento non ne vedo le condizioni. Renzi sta facendo la sua strada, noi faremo la nostra. Senta, c'è una domanda per chiudere di Mario Secchi. Buongiorno. Buongiorno Mario. Allora, Giovanni, se dovesse andare male, cosa che è probabile ma non è ancora scritta, diciamo, cosa succede dentro Forza Italia? Cioè, quali sono i passi comunque necessari che tu vedi? No, io credo che Forza Italia debba comunque interrogarsi sul suo futuro. Il centrodestra sta vivendo una fase di ricostituzione dopo dopo qualche mese, qualche anno difficile. Io spero che le elezioni regionali vadano bene, siano già una... Bene cosa vuol dire? Bene cosa vuol dire? Quanto è il risultato minimo? Il risultato minimo è confermare le due amministrazioni dove siamo scelti. Sì. Il risultato migliore sarebbe strapparne qualcuno ai nostri avversari. Senta, un'ultimissima cosa. Renzi e Salvini sono sempre in televisione. È ancora lì che si vince? La televisione serve per comunicare un messaggio. Sì, ma si vince in televisione? No, guardi, è una polemica lunga, Minoli. Va c'è bene. Stato anni in cui si andava tutti in televisione, Berlusconi ci stava e ha perso, Berlusconi ci stava vinto, Renzi c'è stato, ha vinto le ultime europee, vedremo se vincerà. Vabbè, soddisfa la vanità, ma non... Qualcosa da dire. Qualcosa da dire. C'è Pietrangelo Buttofuoco che c'ha un'ultimissima domanda. Toti, buongiorno, lo dico senza malizia, buongiorno. Una domanda senza malizia, ma dovendo scegliere nella famosa erede tra Marina o Barbara, cioè le figlie, e una Mara Carfagna, lei chi sceglierà? No, non voglio fare il surrogato di scelta degli elettori, devono scegliere i militanti. Vabbè, lei però è militante, ma dica, lei una elettore. Cosa ce la dica, forza. Contare che non credo che Marina e Barbara possano... Vabbè, allora scelto Carfagna. Vabbè, scelto Carfagna, va bene. Grazie, auguri. Grazie, auguri. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS. Lo Stato islamico ha conquistato Palmira. I militari dell'IS sono entrati anche nella zona archeologica, controllano interamente la città moderna. I jihadisti hanno conquistato l'ultimo posto di frontiera tra Iraq e Siria, che era ancora presidiato dalle forze di Bashar al-Assad. Strategicamente questa località è inoltre vicina alla zona dei giacimenti di gas, vitale per l'approvvigionamento energetico del paese. Ora l'ISIL controlla la metà della Siria e la conquista di Palmira potrebbe rappresentare una tappa decisiva nel cammino verso la capitale Damasco. Loro hanno l'artiglieria, gli aerei, i carri armati. E noi che cosa abbiamo noi? Il sacro dovere di resistere. Professor Sergio Romano, storico, scrittore, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, professore, la bandiera nera dell'ISIS che sventola su Palmira è l'inizio della fine per la Siria di Assad? Io credo che abbiamo in qualche modo creato la leggenda ISIS. Ci siamo convinti che sia invincibile e a questo punto non c'è modo peggiore di fare una guerra quando si ritiene che il nemico sia inevitabilmente destinato, certo, a vincere. Attaccare però i monumenti di Palmira è un delitto contro l'umanità, senza dubbio. Ma dove sono le radici profonde di questo odio contro la cultura e la storia? Per la verità loro non hanno ancora distrutto il patrimonio archeologico, no, di Palmira, lo hanno fatto in altre circostanze certamente, e ho avuto l'impressione che queste manifestazioni di iconoclastia fossero in qualche modo collegate con la filosofia radicale di un gruppo religioso estremista. Non dimentichiamo che la iconoclastia è un prodotto del monoteismo. Siamo stati iconoclasti anche noi in passato, non su tutto il territorio della cristianità, ma certamente per esempio in Oriente, perché se c'è un Dio solo, qualsiasi altro atto di ammirazione o venerazione nei confronti di altri non può che essere blasfemo. Allora, voglio dire, mi scandalizzerei a questo punto fino a un certo punto. Ci sono altre cose che mi preoccupano maggiormente nel rapporto con l'ISIS, e quello che mi preoccupa di più è il fatto che non lo si combatta nel modo giusto. Ecco, infatti. Ma intanto con le bombe e coi droni non rischiano di essere anche gli americani a distruggere i tempi di Palmira? Probabilmente non tanto i tempi di Palmira, ma certamente l'uso dei droni si è dimostrato in molte circostanze del tutto inadatto, insufficiente. Il drone non riconosce l'amico dal nemico e molto spesso colpisce l'uno e l'altro contemporaneamente. Questo è accaduto in Afghanistan, è accaduto in Iraq e in molte altre circostanze. D'altro canto, davvero possiamo rimproverare Obama di non volere mandare truppe sul terreno? Tra parentesi, qualche cosa è andato sul terreno, sì, operazioni, poca roba, sì. Sì, operazioni di comando sono state fatte. Ecco, ma... comunque, Sì, no, ma professore, l'arrivo dell'ISIS a Baghdad cosa potrebbe provocare? Ma quello è certamente il disfacimento totale dello Stato iracheno. È abbastanza interessante che gli Stati Uniti a questo punto stiano prendendo una posizione molto dura nei confronti dell'Iraq. Il segretario della difesa americano ha detto: è colpa vostra, non state combattendo, non fate il necessario per fermarle. Ma le truppe iraniane potranno ancora ribaltare l'esito dello scontro, secondo lei? Per il momento sono quelle che danno maggiore affidamento. Certo. Non sono tutti necessariamente iraniani, hanno dei quadri iraniani, comandante, probabilmente anche comandanti di battaglione, comandanti di compagnia, ma sono milizie sciite, le quali sembrano molto più animate dal desiderio di battersi. Ecco, ma Obama continua a dire: non credo che con l'ISIS stiamo perdendo. Propaganda, insomma. Sì, forse anche la convinzione che comunque alla fine il diluvio di armi, perché quelle sì gliele mandano, il diluvio di armi finirà per avere la meglio. Ma il problema è la divisione fra coloro che combattono l'ISIS e dovrebbero combatterlo invece uniti. Il grande nemico dell'ISIS è Bashar al-Assad, il presidente siriano, ma noi non vogliamo che sia il nostro amico, il nostro alleato, preferiamo che continuare a considerarlo come un pericoloso nemico. La Turchia è un paese alleato della NATO, dovrebbe stare con noi in questa vicenda, invece no. Considera Bashar al-Assad peggio dell'ISIS. E quindi quella contraddizione lì è il cuore del problema. Assolutamente. Ma negli Stati Uniti Hillary Clinton e Obama sono sotto attacco per scelte fatte in passato in Libia e per il ritiro prematuro dall'Iraq, che è considerato in qualche modo la premessa per la nascita dell'ISIS. Quella situazione inciderà sulle prossime elezioni americane, secondo lei? Anzitutto questa situazione è il risultato della campagna elettorale. Per carità, io sono sempre stato personalmente convinto che le scelte americane in quel settore siano state pessime a partire dalla guerra in Iraq del 2003. Ma attenzione, l'America non è poi molto diversa dall'Italia o da ogni altro paese quando comincia la battaglia elettorale. La battaglia elettorale non ci sono, come dire, limiti alle accuse, cioè qualche volta anche alle calunnie. Senta, ma gli Stati Uniti adesso sono schiacciati comunque di fatto, anche grazie a questi errori di cui parla lei, tra due alleati, uno antico che è l'Arabia Saudita e uno nuovo che è l'Iran. Ma possono scegliere o devono restare in equilibrio? Ma è molto difficile scegliere quando questi due paesi sono letteralmente in guerra fra di loro, anche se non lo sono direttamente, molto spesso lo sono soltanto per procura, ma non c'è dubbio che noi stiamo assistendo, oltre ai mille altri problemi di cui si compongono queste crisi, a una battaglia secolare fra sunniti e sciiti, e l'Iran naturalmente è terrorizzato dall'idea che il mondo sunnita a un certo punto prevalga in paesi dove la maggioranza popolare è sciita. Certo. E a sua volta l'Arabia Saudita naturalmente è terrorizzata dall'idea che gli iraniani possano avere l'arma nucleare. Ecco, ma secondo lei si arriverà a uno scontro diretto tra Arabia Saudita e Iran? Ma non credo, c'è una cosa che mi ha piuttosto colpito in questi giorni. ISIS ha attaccato una moschea sciita in Arabia Saudita. Beh, d'accordo, era una moschea sciita, è chiaro che sunniti e sciiti si odiano. Sì, ma era in Arabia Saudita, non poteva non sapere che questo avrebbe enormemente imbarazzato l'Arabia Saudita, la quale del resto il suo appoggio all'ISIS lo ha nascosto, ma probabilmente. Ma c'è. Senta, ma l'Iran combatte per avere via libera nel negoziato nucleare? Cioè Iran nucleare vorrà dire anche Arabia Saudita nucleare? Io non credo che vogliono l'arma nucleare, questo lo hanno affermato sulla base di principi religiosi e credo che a questo si possa anche credere. Credo che non abbiano, il dovere di sottostare a una regola imposta dagli Stati Uniti, che hanno l'arma nucleare, la tollerano quando è degli amici, non la tollerano quando è di qualcuno che potrebbe un giorno diventare nemico. Sì, d'accordo, questa è politica, ma vogliamo farne una regola morale? Certo. Senta, ma l'Occidente comunque sembra impotente, nascosto dietro l'Iran, è così? No, l'Occidente ha una mentalità diversa, anzitutto ha una mentalità molto più economica. Noi sappiamo che la Russia e l'Iran sono mercati importanti e in un momento in cui l'economia occidentale non funziona benissimo, trascurare quei mercati, trattarli alla stregua di nemici, massacrarli con le sanzioni, questo non piace all'Europa. Ecco, ma professor Romano, lei ha scritto un libro, l'abbiamo già citato, In Ode della Guerra Fredda, una controstoria. Ecco, il Medio Oriente sta prendendo forma, il primo vero cambio di alleanze dopo la Guerra Fredda? No, io credo che nel Medio Oriente vengano a scadenza problemi che già esistevano, la decolonizzazione non ha veramente funzionato, lo Stato arabo non è mai veramente nato come Stato solido, condiviso dalla pubblica opinione, dalla società arabo-musulmana. E questa è certamente una delle ragioni. Poi naturalmente gli Stati Uniti con le loro guerre hanno, come dire, creato il campo di battaglia, e il campo di battaglia è una straordinaria calamita per chi ha voglia di menare le mani o per chi ha voglia in qualche modo di alzare una bandiera, un messaggio, un segnale, soprattutto religioso. Quindi la responsabilità è obiettivamente in buona parte degli Stati Uniti. E l'Europa è fuori dalla partita in questo caso. Ma l'Europa, per pigrizia, per voglia di non antagonizzare gli Stati Uniti, per le molte divisioni che in qualche modo continuano a rendere l'Unione Europea un'ipotesi. Sì, un handicappato. Ebbene, per tutte queste ragioni l'Europa in qualche modo, pur essendo in disaccordo con gli Stati Uniti, ha accettato di reggere il bastone, di farne essere lo scudiero, come dire, l'attendente, per così dire. Ecco, ma è la Russia, professore, in questo gioco a incastro, comunque a rovesciamento di alleanze molto spesso, sta a guardare? La Russia ha un problema islamico che noi ignoriamo, non vogliamo assolutamente renderci conto che il paese che ha il maggiore problema islamico, in grosso modo, appunto, 20-30 milioni di musulmani, frontiere fra musulmani e cristiani all'interno del suo paese in moltissimi punti strategici, non si combatte l'Islam radicale, l'Islam dell'ISIS, se non si, in qualche modo non si ha una strategia comune con i russi, e questo invece non si vuole fare ancora una volta perché la Russia deve essere cattiva. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Fermo qui, ho deciso, non vado, questo parcheggio mi ispira, va bene, accosto a questo autotreno che dorme, mi allungo anch'io che ho un sonno da cane, butto lo sguardo e mi metto a sognare, c'è Rita Ewa che mi sta a guardare, tu sei soltanto un ricordo lontano, ad una festa da ballo noioso. Allora è successo che un tipo oggi e si ferma accostando un autotreno. Come ogni giorno cerca un posto al parcheggio di Anagnina, Roma, per prendere la metropolitana e arrivare in centro. Trova posto accanto a questo grande camion nel quale, nella cabina, sul finestrino, c'è un poster di Rita Hayworth. È una foto in bianco e nero, ma ciò consente che prenda vita. Non è infatti un ostacolo tutto quel virare di seppia sull'abito elegante della bella dea dalle curve di vertigine che scende dal camion, appunto scende Rita, e prende a braccetto il tipo che è un signore di mezza età, ubriaco di felicità nel portarsi in viaggio Rita Hayworth. Le compra anche il biglietto, passano il varco, ma quando escono a Barberini i controllori non osano fermarli, anzi fanno ala al loro passaggio e una scia di profumo in bianco e nero porta l'ebbrezza della sensuale eleganza a tutta la città. Giorgio Conte, Rita Ewa. Tu sei ormai un ricordo lontano, ad una festa da ballo noiosa. Vai Mario con le tue bolle. Oggi ce n'è. Ce n'è. Voto Antonio, Italiani! insomma, settimana di voti. Voto, si è votato in Polonia, in Spagna, vota anche l'Etiopia dopo un sacco di tempo. Il voto polacco è interessante, non è mica così scontato, perché ha vinto un partito di centrodestra che si chiama Diritto e Giustizia, guidato da un signore che si chiama Duda, molto giovane, 43 anni, ultranazionalista, insomma, un voto che è un mix contro l'Europa, comunque di campanello d'allarme, con tutto che i polacchi volevano entrarci poi alla fine. È stato decisivo, ahimè, il tema della disoccupazione, che tornerà come vedremo, ma il voto che ci interessa di più, secondo me, è quello della Spagna. Perché il Partito Popolare, hai visto, Giovanni, serissima difficoltà. Sì. È vero che spesso vengono puniti i partiti che governano, però insomma va molto male, in realtà ha perso terreno ovunque, pur restando il primo partito. È il peggiore risultato degli ultimi 20 anni. A Madrid e a Barcellona, tra l'altro, anche se a Madrid si sono affermati, però in queste due città sono emerse due figure femminili, Manuela Carmena e Ada Colau, che promettono, insomma, di rinverdire ulteriormente sul piano nazionale la sinistra. Nonostante i buoni dati della ripresa economica, dunque, Mariano Rajoy non è riuscito a fare il miracolo di cambiare l'immagine del partito, anche perché è una ripresa fatta sulle spalle del più debole. Giovanni, cioè, io continuo a ripeterlo, poi predicheremo nel deserto tutti: se tu hai il 50% di disoccupazione giovanile, e non puoi pretendere che poi questi ti votino. C'è un problema grande in tutta Europa, nel sud dell'Europa in particolare, che riguarda i giovani, non c'ha una soluzione finora. Certo, bisogna creare più posti di lavoro. Certo, non è questa Europa forse la soluzione. Non questa Europa con queste regole contabili, serve più flessibilità, a mio avviso. Salamino. Ultima settimana di campagna elettorale. Allora, Matteo Renzi rinuncia al cappotto, perché appunto, come abbiamo detto, dal 6-1 adesso accarezza l'idea del 4-3. Rinuncia al cappotto, ma Silvio Berlusconi, il suo avversario, è in cerca di una maglietta della salute. Forza Italia ha infatti le sue difficoltà e il vecchio leader, immalinconito, dopo aver lanciato l'idea di un partito repubblicano, annuncia il proposito di procurarsi in qualche modo un erede. Anzi, articolo al femminile, la erede, perché Silvio Berlusconi la vuole donna. Chi sarà? 10 ragazze per me possono bastare. Comincia la giostra dei nomi. Allora, esclusa, categoricamente esclusa, anche perché abbiamo sentito Toti non la vota, sì, Marina, la primogenita. Esclusa anche, e Toti non la vota, Barbara, l'altra figlia di Berlusconi. Si prepara a bordo campo. Mi riesce la metafora calcistica, Giovanni? Sì, riesce. Si prepara a bordo campo Mara Carfagna. Quotatissimo, ovviamente, Silvia Sardone. Se la gioca Lara Comi, personalmente vorrei Laura Ravetto, ma tu? Comunque sì, no, perché ma è vero, è la più attrezzata in scienza, male lui, in scienza e sapienza, ma si sa come finisce in casa Berlusconi, e non ci vuole un sondaggista a capirlo. Lo zoccolo duro resta il pubblico di Rete 4, e se proprio non sarà lei, che so, per esempio Iva Zanicchi, a far propri i destini del popolo della libertà, che è già casa delle libertà, nonché popolo delle partite IVA, dei rivoluzionari liberali e degli italiani alle vongole, arriverà l'unica e degna e perfetta erede. Già Dudù è in festa e sarà, riscalda i motori, anzi li accende, sarà Francesca Pascal. Io lancio una scommessa a tutti voi: sarà Francesca Pascal che sarà eredissima, poi furbissima e accesissima e velocissima con la sua moto, affinché un nuovo simbolo conquisti l'Italia. Io grip e tu den grip, se per caso di ancora la bolla, Mario. Sì. Welcome to the jungle. Purtroppo la giungla è quella tra Iraq e Siria, non quella del Vietnam, è la nostra giungla contemporanea. Che si fa con l'Iraq? Qua è una situazione, e con la Siria, la situazione è ben dipinta dal capo del Pentagono, Ashton Carter, che ha detto sostanzialmente. Poi abbiamo sentito Sergio Romano. Abbiamo sentito Romano, insomma la situazione è grave anche perché l'esercito iracheno si ritira dappertutto. ISIS nel momento in cui sembrava in difficoltà ha messo in realtà a segno due colpi grossi. Il primo è a Ramadi in Iraq, il secondo è in Siria. Questo se uno guarda le carte geografiche, perché la geografia nel campo militare è decisiva, vedrete che sono sulla strada di rispettivamente di Damasco e di Baghdad. Sì. Cioè ISIS è a qualche centinaio di chilometri da Damasco e a un centinaio di chilometri da Baghdad. La presa di Ramadi poi fa parte di una strategia per controllare tutta la provincia di Anbar. Naturalmente. Se guardate, ci sono delle mappe molto interessanti, se guardate bene, chi vuole gli do anche i riferimenti, fino al 15 maggio Ramadi era ancora controllabile, tre giorni dopo l'esercito iracheno è scappato. Questo è il vero problema del fine mandato di Barack Obama. Come ogni lunedì è arrivato il momento del lunedì libro di Alessandra Fiori. Quanta importanza merita l'amore? Sia persone per bene o per male, se si tradisce un matrimonio? I letti in cui uomini e donne dormono insieme stringendosi la mano e pensando a qualcun altro non si possono contare, però si possono raccontare. Lo fa Valeria Parrella, che con troppa importanza all'amore torna alla narrazione breve. Scrivo racconti quando sento che la realtà è troppo sfuggente e varia per essere cristallizzata in una forma lunga, dice. Ma soprattutto, io credo che il racconto sappia parlare di amore così come l'amore è, incompleto e sghembo. Ecco allora 8 storie sull'amare e sul bisogno di essere amati. Sulla seduzione e sul tradimento, sul trovarsi, magari per perdersi, oppure sul lasciarsi andare senza saperlo fare. C'è una donna sui 50 che brutta non è mai stata e si stupisce a rinfocolarsi per lo sguardo di un cameriere. Una suora che non è più fatta per l'abito. C'è Susanna, la 17enne del racconto che dà il titolo alla raccolta, che improvvisamente svela ai genitori tutto il suo disgusto per l'architettura di ipocrisie che da sempre tiene in piedi il loro matrimonio. Ci sono la gioia della nascita e la paura della perdita. Sono amori incompleti e sghembi, così come l'amore è per l'autrice. Troppa importanza all'amore, di Valeria Parrella, Einaudi. Pubblicità. Mix 24. Pascal Vicedomini, rapidissimi perché siamo in ritardo, appena seguito il festival, appena tornato, Disastro Italia a Cannes. Assolutamente no, Trionfo Italia, 2 milioni e 600 mila euro incassati da Sorrentino in questo primo weekend, 1 milione in più rispetto alla giovinezza. Quindi ha vinto il botteghino, non hanno vinto i giurati? Io ammiro molto i francesi perché, come si dice dalle mie parti, se la sono suonata e se la sono cantata. Cioè ha vinto lo sciovinismo. Esattamente. E la grande sorpresa è questo ragazzo ungherese, Laszlo Nemes, col film Il figlio di Saul ha conquistato tutti e si candida per essere il mio film dal torneo dell'anno agli Oscar. Grazie Pascal. Mario, ancora una bolla? Sì. Allora, sempre interessante guardare che cosa succede sotto traccia nel Parlamento americano. Il Patriot Act è scaduto, non è stato rinnovato per 3 voti, si proverà a rinnovarlo in un'ultima seduta in extremis il 31 di questo mese. È interessante perché se scade viene sostituito da qualcos'altro. Non si sa cos'altro, era un programma molto estensivo, come sapete tutti, varato dopo l'11 settembre. Monitoraggio di tutte le telefonate, le email. Meno controlli. Sì, il problema che segnalo è che da Snowden ad oggi la tecnologia ha fatto altri balzi da gigante, per cui il legislatore probabilmente arriverà più indietro di quanto in realtà la tecnologia non possa consentire. Quindi è interessante guardarlo anche perché da noi è già stato riformato tutto e hanno poteri enormi, nessuno ne parla, vabbè, pazienza. Intanto noi ne parliamo. Pazienza. Salamino! ieri felici per il risultato del referendum in Irlanda, nella cattolicissima Irlanda, dove il matrimonio omosessuale è una realtà. E felice innanzitutto è la Chiesa, la comunità di San Patrizio, per bocca dell'arcivescovo di Dublino Martin, dice: dobbiamo prendere atto che la maggioranza di chi ha votato sì ha passato 12 anni nelle nostre scuole cattoliche. A questo punto uno si chiede: cos'è una propedeutica di Paideia? Comunque, in Italia felicissimi. Il teologo Vito Mancuso, felicissima per dirla con Lucio Dalla, fa un editoriale dove il concetto è questo: anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Insomma, perfino a Expo si corre ai ripari e Giuseppe Sala, per essere coerente con lo zeitgeist, con lo spirito del tempo, è in smanie per cercare di dare i colori dell'arcobaleno all'esposizione universale. Inutile dire come l'argomento politico sia quello di andare dritti come un treno verso i principi di libertà e di diritti, per cui Maria Elena Boschi da un lato e Maria Carfagna dall'altro, cioè una da sinistra e una da destra, hanno fatto sapere che subito dopo le elezioni provvederanno a colmare questo vuoto normativo. I 5 Stelle, manco a dirlo, sono già tutti al mucca assassina. E perfino Angelino Alfano cammina come su di un filo. Insomma, sia consentita una parentesi reazionaria. E ma quindi, questa spesso. Addio a Tinì Canzino. Addio a Rosa Fumetto, addio a Marina Lothar, addio a Karin Schubert, mai più Ursula Andress, mai più Brigitte Bardot, né, niente più neppure Valeria Solarino, cancellata Monica Bellucci e zero tagliato lungo su Anita Ekberg. Addio alla femmina, ormai tutto è mucca assassina. A far l'amore comincia tu. Sul letto vuoto, il vuoto vabbè, possiamo dissociarsi? Io mi dissocio. Ti dissoci? No, Marina, dai. Marina vorrei sapere che storia racconti oggi. È stato proclamato beato sabato scorso a San Salvador, davanti a una folla di migliaia di persone. Per la Chiesa è un martire, per le popolazioni dell'America Latina era già santo. È la storia di Oscar Romero, vescovo ucciso nel 1980 dalla violenza del regime militare mentre celebrava messa, e della sua incredibile vita, della sua conversione e tenacia nel denunciare le violenze, ne parliamo con Monsignor Vincenzo Paglia, postulatore che ha portato avanti la sua causa di beatificazione. Bene, allora dopo il giornale radio la storia di Monsignor Romero, pubblicità.